Il punto di Stefano Folli. Sarebbe un errore pensare che la crisi sia archiviata dopo il discorso tranquillizzante di Berlusconi ieri sera in via del Plebiscito. Però è vero che il governo Letta non cadrà. Ha una condizione: che anche il PD accetti questo stato particolare, né di pace né di guerra all'interno della coalizione. Alcuni, per esempio, vanno in una direzione diversa, come Bersani, che dice va bene il governo ma non ad ogni costo. In ogni caso ora c'è spazio per Giorgio Napolitano per ricucire i fili. Questo è un impegno naturalmente che non potrà essere di un giorno, anche perché Berlusconi si aspetta qualcosa che non può essere la grazia e che comunque difficilmente potrà essergli dato. Si parla di un salvacondotto, ma tutto questo non può avvenire senza scatenare contraccolpi dentro il governo e la maggioranza. Da oggi quindi il compito di Napolitano diventa ancora più difficile, diventa quotidiano, per tenere in vita un governo che, oltre a sopravvivere, deve anche agire e agire bene.